Siete all'ascolto di radioarchimede.it. Ciao e bentornati su Sono solo nuvolette, il programma settimanale di Radio Archimede sul fumetti, graphic novel, cultura pop ad ampio raggio, su tutto ciò che ci piace, dall'horror al fantastico al fantasy. Ho già finito le parole, perché il problema è che oggi è contemporaneamente un lunedì e dopo Pasquetta. Chi ha inventato Pasquetta? Probabilmente il Dottor Destino, visto che siamo in tema di un vero cattivo. E quindi io ho tentato una partenza seria per una volta e non ce l'ho fatta, ma perché mi annoio, sto cercando di inventarmi una partenza vera e non sono capace, ho tanti limiti e questo è uno di quelli. Uno che invece per quanto mi riguarda non ha limiti come sceneggiatore, deve fare sempre di più, è Andrea Cavaletto, sceneggiatore di cinema internazionale, diciamolo, perché poi approfondiremo perché internazionale, perché per una volta non è una banalità, ma è davvero uno sceneggiatore all'opera sul mercato internazionale, e poi sceneggiatore di Dylan Dog, Martin Mister e Tex, di cui parleremo tra poco. Ciao Andrea, benvenuto su Sono solo nuvolette. Ciao a tutti. Io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter. Appena il mio cervello si resetterà dopo il terribile giorno di Pasquetta, che come abbiamo detto è un'invenzione demoniaca, cominceremo a parlare seriamente di fumetti. Per adesso dobbiamo sbracare, quindi diciamo qualcosa di... Partiamo da una domanda difficilissima, Andrea. Che cosa hai fatto ieri? Cosa hai fatto ieri? Sì. Grigliata, ok. Che tu invece hai meditato. Io ho meditato, prima. Ho camminato tra le colline, ho visto... Io meditavo cosa grigliare. Più o meno siamo sulla stessa frequenza d'onda. Penso che i pensieri pessimi siano stati per entrambi, quindi... Grazie a Giovanni in regia, grazie a Cosimo che mi ha dato l'opportunità di fare questa trasmissione. Radio Archimede è in un bellissimo posto che è la Biblioteca Archimede, motore di cultura, zona di cultura. Noi facciamo cultura con la cultura pop, con qualcosa che ci ha emozionato a lungo. Fate cultura e chiamate me. Allora, qui dobbiamo subito cominciare con Coaching Diego. Andrea Cavaletto, sei uno dei più importanti. In questo momento sei uno dei... Sicuramente del Piemonte sei uno dei più importanti e influenti sceneggiatori del Piemonte, dai. Vabbè, a livello regionale. È così. Cominciamo con Coach. Perché noi abbiamo oggettivamente un problema, noi che lavoriamo con la cultura pop. Ci sottostimiamo. E improvvisamente emergono all'interno del mondo della cultura personaggi assolutamente di valore come GP, però quanti altri autori di graphic novel intimista ci sono che magari meriterebbero il risalto che ha GP? Sugli sceneggiatori emergono tanti nomi. Andrea Cavaletto, meriteresti più risalto, ed è il motivo per cui io, che sono vedo lungo, ti ho invitato qui a Sono solo nuvolette. Stavo partendo con una domanda seria e l'ho persa. Vedi? Uno ci prova e niente. Se vuoi te la faccio io. La scintilla... No, questo non ti permettere, il capo sono io. La scintilla che ti ha fatto amare l'horror, la sai attribuire, l'horror e il fantastico, la sai attribuire da qualche parte? No. Oppure inventa qualcosa, fai come John Lennon che aveva sognato i Beatles. Inventa qualcosa, inventa adesso, sul momento. Ma no, dico la verità, dai. Di la verità. Sì, niente, ho sempre amato l'horror fin da piccolo, non so da dove mi sia venuto fuori questo interesse, forse... Do la colpa a mia madre, che era una fan di Dario Argento, okay. E quindi non si perdeva uno dei suoi ogni suo film in televisione. Mi ricordo che me li faceva guardare, cioè me li guardavo vicino a lei e mi copriva tutte le volte con la mano okay. Le scene splatter. Quindi ci ho messo un po' di anni a capire cosa succedeva in Profondo Rosso Tra una scena di dialogo e l'altra, però sentivo solo le urla. Non so quanto bene mi ha fatto, forse era meglio se mi faceva vedere così. Beh, però uno degli elementi importanti dell'horror è anche il suggerire, il nascondere, ciò che sì. Abbiamo imparato, e tante sì. Volte il mostro sta nell'ombra, quindi forse anche una visione parziale ha segnato il tuo immaginario. Sì, almeno ovviamente mi sono venute un sacco di idee in testa, no? Mi immaginavo io che cosa succedeva e come moriva quella persona in base alle urla. Cercavo di capire quante coltellate si pigliava. E questo è un po' il lavoro di arricchimento della fantasia, la scrittura... Sì, mi ha fatto da trainer. Ok. Dopo tutto, la maggior parte, uno dei capisaldi dell'horror, che so già, che citandolo con te vado sul sicuro, Howard Philip Lovecraft, cita orrori indescrivibili. Sì. Infatti il bello dei racconti di Lovecraft è quello che ti parla di mostri ma non ne descrive neanche uno, quindi lascia totalmente l'incubo fuori dalla soglia visiva. Ed è anche un po' un problema di quelli che si cimentano nella trasposizione cinematografica dei racconti di Lovecraft, cioè il cinema mostra, quindi il problema grosso è proprio quello che è difficile, cioè automaticamente se tu fai vedere il mostro nel momento in cui lo vedi fa meno paura. Esatto, ma credo che questo sia successo al grande Cthulhu, nel senso adesso che ne abbiamo un'iconografia ben precisa è stato facilmente smitizzato. Cthulhu è una delle divinità mostruose create da Ward Philip Lovecraft. E adesso che è più raffigurato? Sì, cioè adesso uno indubbiamente se lo immagina con questa testa da polipo, i tentacoli e questo corpo immenso, però non è Lovecraft che ha detto come era fatto, sono gli illustratori che sono venuti e l'hanno disegnato come se lo immaginavano, ed è entrato nell'immaginario collettivo. Esatto. Così. Ma forse è stato semplificato con le immagini, esatto, e le parole. E comunque fa meno paura. Cioè, esatto. Se uno avesse leggesse i racconti di Lovecraft senza avere in mente le descrizioni dei mostri che poi ne hanno tratto, secondo me ne uscirebbe più terrorizzato dalla lettura. Certo. Stephen King parla poi di tre livelli di paura: il raccapriccio, orrore e terrore. E ciò che suscitava Lovecraft era terrore, il livello sì, più alto. Sì. Qualcosa di immobilizzante, paralizzante e non affrontabile. Ed è anche molto difficile da rappresentare. Esatto. Cioè, forse se sei un bravo scrittore riesci a renderlo bene in un romanzo, in un racconto. Però quando si parla di fumetto o di cinema, terrorizzare è difficile perché hai le immagini davanti e esatto. Quindi nel cinema tanto quanto uno se la cava perché puoi spaventare, fare spaventare il pubblico con i trucchetti del mestiere, cioè quelli semplici, alzi il volume, sì, l'urlo improvviso, la porta che sbatte. C'è tutta una grammatica dello spavento. Invece il fumetto è ancora più difficile perché il fumetto, cioè, hai le immagini lì che ti svelano tutto. E non hai il sonoro, quindi non puoi neanche giocare con il tuo lettore perché è tutto lì, quindi è ancora diverso. Io mi sono scelto di fare fumetti horror, quindi e qual è secondo te il trucco? Cioè Dylan Dog è così popolare, visto che entriamo subito nel personaggio di Dylan Dog, per la paura o per il legame con il personaggio? Secondo me soprattutto per il personaggio, però l'horror non è una cosa da trascurare in Dylan Dog, cosa che spesso si era un pochettino fatto in passato, cioè di lasciare un po' perdere questa componente, ed era la cosa che da lettore mi spiaceva. Mi ero detto se per caso un giorno riuscirò a scrivere Dylan Dog cercherò di fare delle storie che comunque siano horror, perché a me, lettore della prima ora di Dylan Dog, perché ho iniziato leggendo il numero 5, da lì non me ne sono mai staccato, la componente splatter horror era una delle cose che mi facevano amare la serie, e oltre al personaggio. Per te, autore, che cos'è non horror? Quali sono gli elementi che togli e per cui una storia non è abbastanza horror? Ma sicuramente, l'ho già detto altre volte, il giallo. Cioè, non mi piacciono tantissimo le storie dove Dylan indaga, anche se è l'indagatore dell'incubo, però sì, credo che si contino sulla punta sulle dita di una mano le storie di sclavi in cui Dylan Dog indagava. Cioè, alla fine tutto gli capitava quasi per caso o per un sistema del destino a lui stesso sconosciuto. Cioè, lui si trovava in queste situazioni e il suo famoso quinto senso e mezzo lo portava, sì, a risolvere i casi, però non c'era l'indagine, diciamo, classica. Ecco, io sono completamente contro i gialli, non mi piace proprio come genere, sono un pessimo giallista. Sono radici culturali completamente diverse, cioè il giallo viene dall'illuminismo, da immaginare un mondo in cui tutto può essere spiegato e risolto dal raziocinio. È razionale, Dylan non è razionale. L'orrore è l'esatto opposto. Esatto, cioè il bello di queste storie, che è poi il bello dell'horror alla fine, dell'horror fatto bene, è che le cose succedono e non c'è una spiegazione. Cioè, il protagonista che si salva, se si salva alla fine, non capisce che cosa è successo. E idem è lo spettatore. Cioè, se tu vai a guardare un horror, sei già predisposto a trovarti in situazioni che hanno a che fare con gli angoli bui, gli ignoti, e proprio per questo non ci sono delle vere e proprie spiegazioni. E la domanda più grossa, più importante, è quella da $1 milione che fanno tutti gli appassionati e a maggior ragione gli autori horror: perché ci piace l'horror? Tu ti sei dato una risposta? Quantomeno, perché piace a te l'horror? Perché secondo me l'horror è fonte, almeno per me è fonte di grande immaginazione. Volevo chiederti in realtà qual è il senso dell'universo riguardo all'horror, però mi basta la tua opinione al riguardo. Sì, grazie. Cioè, ti stimo, ma non così tanto. Troppo gentile. Ma no, ti dico, personalmente sono affascinato dall'horror perché è una cosa che parla di argomenti che alla fine non conosco e mi affascinano. Quindi è l'ignoto, a monte la scoperta dell'ignoto. È il fare il bagno in un mare di cui non vedi il fondo, e quindi ti emoziona, ma allo stesso momento ti crea paura. Perché... Quindi in una classificazione dei generi, tu l'horror lo metti più vicino all'avventura sicuramente che al giallo. Nell'avventura c'è la scoperta. Eh sì. Cioè, l'avventura nel senso di esplorazione. No, ma ti ho detto, io il giallo lo metto all'ultimo posto delle categorie, okay. Cioè, anche dopo il porno, guarda. Vabbè, questo fa categoria a sé, poi. Sì, anche vabbè, se, sono gusti miei. Anche poi, se per mostre e carnazza sono notoriamente le basi dell'horror. Sì, quindi... stavo discutendo con una persona un po' di tempo fa, tanti registi del porno sono poi andati a fare horror, perché comunque ci sono delle tipologie di horror, che l'horror cinematografico, dove è il mostrare, cioè nell'horror si mostra, c'è un voyeurismo... della carne molto presente. È un discorso sullo splatter, più sull'horror. Esatto, cioè, io sto parlando di questa branca, poi ovviamente ci sono altri horror tutti psicologici, esatto. E siamo su, però l'horror abbraccia, una parte di horror abbraccia esatto. Anche questi temi. Certo. Molto fisici, grafici. Certo, e d'altra parte... Dario Argento era uno di quelli. Esatto. Forse più di Argento, Lucio Fulci, che era proprio... il re indiscusso delle ferite aperte, dei dettagli truculenti, però c'è tutta una scuola. E c'è tutta una fenomenologia dell'interpretazione dell'horror che vede i coltelli che scavano nella carne come degli stupri. Sì, sì. In un certo senso, degli stupri metaforici. Sì. Adesso siamo partiti come dei minchioni, adesso andiamo addirittura nella fenomenologia dell'horror. Torniamo, quindi mettiamo minchioni. Una canzone, perché sennò poi ci prendiamo troppo sul serio. Quindi partiamo semplici in un certo senso oggi. Partiamo semplici anche perché il titolo di questa canzone ci dà là per partire con l'argomento del prossimo di cui parleremo dopo il break. Il pezzo è un classico dei Black Sabbath, si chiama Paranoide, fa più o meno così. E torniamo in onda, sempre Sono Solo Nuvolette. Io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter, se volete seguirci, interagire, fare domande sul momento. Se avete anche domande indiscrete per Andrea Cavaletto, noi le leggiamo ma non le faremo, perché Andrea è una persona molto riservata e quindi non si parla di certe cose. No, no, assolutamente. Paranoide ci offre lo spunto, la canzone dei Black Sabbath ci offre lo spunto per parlare di Paranoid Boyd. Ti lascio interamente di dire di che si tratta. Cos'è questo nome suggestivo che fa pensare a un personaggio, immagino? È un personaggio. Mi hai lasciato una domanda ampia. Ok, ok. Ad ampio raggio. È un personaggio di che cosa? Di fumetti. Ok, poi ce la possiamo fare. Sì, dai, allora parto. Dunque, chi lo pubblica? Paranoid Boyd è il mio primo personaggio la mia prima creazione, cioè interamente mio. È la mia prima serie a fumetti, dopo aver passato un bel po' di anni a fare graphic novel, storie brevi e a lavorare su altri personaggi che non sono di mia proprietà. Paranoid Boyd l'ho inventato io ed è nasce appunto come serie per questa piccola casa editrice molto agguerrita che si chiama Edizioni Inchiostro. Se vi giunge nuovo il nome, dico che Edizioni Inchiostro sono quelli che pubblicano Cannibal Family. Per chi non lo conoscesse, è un fumetto indipendente seriale che sta avendo un discreto successo, è estremamente horror. Okay. Sono arrivati al settimo numero E niente, mi sono innamorato dal primo momento di questa serie. L'altro anno, quando l'ho vista a Lucca, ho preso subito contatto con l'editore. L'editore, ho scoperto, mi conosceva. C'è stata una reciproca ammirazione e da lì mi è stato dato, dopo una brevissima, un cameo mio su un numero di Cannibal Family, il numero 2, mi è stato offerto di creare questa serie. Ma un cameo nel senso che hai scritto qualcosa, sì, o fai un personaggio e vieni sbudellato? No, perché a volte capita No, ho scritto... Insegnava John Landis, eccetera. Mi piacerebbe prima o poi finire sbudellato in qualche storia, quindi se qualcuno dei miei disegnatori poi volesse usare le mie fattezze per un omicidio truculento in cui mi fanno di tutto, sono... Non chiederle certe cose, sono attento a ciò che desideri. Potrei diventare un meme, magari tutti i disegnatori a disegnare me hanno morto. Hanno ammazzato Andrea Cavaletto, brutti bastardi! Fa molto South Park. Esatto, il nuovo che potrebbe essere qualcosa del genere. Quando uscirà il primo numero? Allora, il primo numero uscirà per Lucca Comics and Games di quest'anno, 2015. Okay. Ho tirato su un buon team di lavoro che è cresciuto. E siamo un po' tanti. Il fatto che non siano scappati in corso d'opera è già un buon notizia. Vabbè, più che altro è gente con cui ho già collaborato, quindi okay, mi conoscevano. Non li hai spaventati troppo? No, anzi, secondo me... devi spaventarli di più. No, sono più o meno sulle mie stesse okay, linee d'onda come linguezza mentalità, d'onda, okay, quindi certo. Non è gente che si spaventa. Okay. Ecco. E vabbè, vorrei citarli tutti, spero di ricordarmeli, provo a ricordarmeli, se no leggo. E chi vede in webcam vede che sbirci, però, esatto, però chi ascolterà il podcast non sa niente, non saprà. Che è, quindi... Dovrei ricordarmeli, allora, cercherò anche di dire... Ah, ecco, Paranoid Boyd nasce, ripeto, come serie, però essendo io una persona abbastanza con i piedi per terra, so benissimo com'è la situazione e i rischi che ci sono ogni volta che nasce una serie nuova. Da lettore la cosa che mi dava più fastidio quando iniziavo una serie era sperare che questa serie terminasse. Tante volte sono rimasto un po' fregato perché la serie, ahimè, per mancanza di lettori ha chiuso bruscamente, lasciandomi con un amaro in bocca. Poi non è colpa neanche, anche oramai c'è la serialità televisiva cinematografica, sì, americana, e ci sono anche serie in, sì, cui c'è un cliffhanger finale di stagione e poi, esatto, non c'è la seconda stagione. Esatto, quindi non è un male dell'industria italiana. Ho scopiazzato un po' dai serial televisivi e quindi Paranoid Boys si dividerà in cicli narrativi. Okay. Ogni anno avrà un ciclo narrativo. Se va bene, dopo il primo procederemo con il secondo. Hai adottato la definizione di cicli narrativi, sì, perché... voleva essere, ti ricordi che a Candelo parlavamo di stagione ormai lo usano tutte, quindi cicli narrativi. Cicli narrativi è più nuovo. Wow, influenza già il tuo linguaggio, mi preoccupo. Sono il primo ciclo, è composto da 4 numeri, ogni numero è composto da 2 capitoli, un totale, okay, di 8 capitoli, uscita bimestrale. Ogni capitolo è disegnato da un disegnatore diverso. Dopo una preview che uscirà a Rimini Comics, un numero 0 che presenterà le tematiche, non tanto i personaggi quanto proprio le tematiche, e il capitolo che verrà presentato sarà comunque un tassello fondamentale della serie e non è quindi diverso dai vari numeri 0, cioè dove, okay, nei numeri 0 si punta a presentare il personaggio e a quello, sì, che il lettore... No, questo qua, questo numero 0 se ne frega altamente del personaggio, okay, ma è punta proprio su... è un capitolo della storia che fa parte di tutto e sarà disegnato da Simone Delladio. Ok, si chiama Buona Serialità, quello che ti dicono i coach di sceneggiatura americani, che nel pilot tu non devi solo introdurre i personaggi, ma dare anche già un'idea di quello che sarà la serie. Certo. Quindi sono una persona seria. Un professionista e quindi... Dopo questo numero 0, che comunque sarà distribuito gratuitamente a Rimini. Okay. Sarà, lo troverete anche in fumetteria, sarà acquistabile a 1 euro, mm-hmm, per completezza della serie. Partiremo poi con il numero 1 a Lucca Comics, che sarà disegnato da Renato Riccio, il primo capitolo, il secondo capitolo da Biagini. Okay. Procederemo poi con Matteo Pirocco e Enrico Carnevale, successivamente con, di nuovo con Simone Delladio, e con Rossano Piccioni, che è anche editor di Edizioni Inchiostro, editore di Edizioni Inchiostro. Concluderemo con Daniele Statella, che in realtà si è portato dietro solo un trio, una trinità. Okay. Statella, Emanuele Baccinelli e Gianluca Spampinato. E chiuderemo il cerchio di nuovo con Riccio, Renato Riccio. Ok. Tutta gente con, direi, esperienza. Forse l'unico, se non sbaglio, esordiente è Enrico Carnevale. Però ho avuto modo di visionare le sue tavole di prova, che tra l'altro aveva fatto anche per la Bonelli, e mi sono piaciute tantissimo. Aveva uno stile abbastanza dark, scuro, mi piaceva, certo. Mi piaceva. E c'è uno special guest, almeno una copertina. Certo, adesso parliamo anche delle copertine. Le copertine, due sorprese nelle copertine. Una è data da questo misterioso disegnatore, illustratore digitale, che è venuto un po' alla ribalta negli ultimi tempi, inglese, si chiama Black Malcerta. E niente, mi è stato suggerito, appena ho visto... I suoi disegni sono veramente inquietanti, e ho detto: questo deve essere assolutamente il disegnatore delle copertine. Quindi sono entrato in contatto con lui e sarà il copertinista, tra virgolette, ufficiale. Sarà anche il copertinista delle eventuali future stagioni di cicli narrativi di Paranoid Boys. Può anche dire stagioni, non è che adesso no, stagioni, cicli narrativi, ok. E invece per il numero uno abbiamo un'altra sorpresa, che è legata al nome di Lucio Parrillo. Okay. Credo che molti lo conosceranno, molti appassionati di illustrazione. Lucio è un illustratore e pittore, e anche nella corrente pop surrealista, che rappresenta, lui lavora principalmente per gli americani, cover per Rezzonia, Vampirella, ha un grande impatto visivo. Io ho avuto il piacere di lavorarci e spero, se lo intercettiamo qualche volta che passa da Torino, di averlo qui in radio, solo che... cioè, abbiamo qualche problema logistico, e quindi qualcuno si accorgerà che abbiamo principalmente ospiti torinesi o piemontesi, perché dopo tutto ci fanno già la gentilezza di venire qui in radio. Stiamo creando un format un po' particolare dell'intervista tu per tu, che probabilmente può essere anche più interessante rispetto a un'intervista telefonica. Si cerca di mettere a proprio agio gli ospiti, a parte Andrea, che invece a cui farò tutte le domande più difficili possibili. Infatti, per metterlo a disagio. Se no non sarebbe horror, no? Potrei metterti l'horror io a disagio. Mettimi a disagio tu, fammi poi una domanda tu, così vediamo. Io non rispondo, quindi. Queste sono le cose, comunque sono le cose tecniche, okay, per quanto riguarda, okay, il fumetto. E quanto mettere, tu cercherai di mettere a suo agio o a disagio il lettore? Il lettore sarà sicuramente a disagio, almeno questo è il mio intento. Perché mi sono messo in gioco su una serie indipendente, quindi non mainstream? Perché io comunque vengo dall'indipendente, il mio amore è sempre legato alle autoproduzioni, cioè c'è tanta libertà dietro ed è una libertà a cui tengo. Secondo, proprio perché sì, non si fanno i numeri della Bonelli, sicuramente siamo lontani eoni, però questo ti permette comunque di sperimentare di più. Chi mi conosce in campo cinematografico sa che se mi lasciano carta bianca, un po' di turbamenti nello spettatore li lascio, e quando mi è stato offerto da Edizioni Inchiostro la possibilità di fare quello che volevo su una serie, ho subito accettato e mi sono messo di nuovo in gioco per questo. Quindi sicuramente Paranoid Boy non è un fumetto allegro, è un horror psicologico dalle tematiche molto molto cupe. Diciamo che se volessimo paragonarlo a qualcosa di televisivo, direi che come atmosfera siamo nella zona di True Detective. Ok. E che casualmente guardavo mentre stavo scrivendolo, quindi in realtà non è che ho preso da lì, però ci sono delle similitudini. Indaga quello che piace a me, quello che è sempre piaciuto a me. Indaga prima di tutto la società, così come io la vedo. Indaga i rapporti tra le persone e indaga le nostre paranoie, da lì il titolo. Cioè, originariamente doveva essere un horror demoniaco, okay, con appunto questo cacciatore di demoni, una lotta tra due fazioni di di tipo di satanisti, due congreghe diverse. Ma poi è cambiato tutto. In corso d'opera ho completamente cambiato tutto e ho deciso di puntare l'attenzione sulla paranoia. La paranoia che comunque ci lega a tutti, perché anche chi dice di non essere paranoico, ho scoperto poi alla fine che le sue belle paranoie le ha. Io lo sono fondamentalmente quasi su tutto e quindi il terreno è fertile. È stato facile creare il personaggio di William Boyd, che ha un background bello tosto, è paranoico e vede demoni, ma il bello di questa storia è che vorrei che il lettore non sapesse mai se i demoni che William vede sono veri oppure sono solo nella sua testa. Ok, questo è molto interessante, una delle chiavi del buon fantastico, nel senso il buon fantastico dovrebbe sempre lasciarti la chiave di lettura per capire se l'irruzione del fantastico nella realtà c'è o è solo nella testa del protagonista, che è poi alla base di tanti horror. Edgar Allan Poe insegna, esatto. Mi viene in mente, ecco, in tantissimi film horror abbiamo presente la figura del pazzo, cioè in quasi tutti i film ci sono i ragazzi che vanno nella casa di campagna a fare i festini, si trovano sempre sul percorso il vecchietto pazzo che gli dice: voi non dovete andare perché quel posto è maledetto e ci sono. E poi il vecchio muore o sparisce, esce di circolazione. Ecco, William Boyd è lui, è quella figura che nei film horror c'è sempre stata, c'è sempre, è relegata nell'angolino ed è quello che sa tutto, cioè quello che è convinto di aver visto l'orrore. Ok, e secondo te perché questo personaggio è sempre secondario nel cinema, nel horror, e perché tu hai scelto di farne invece il protagonista? Bella domanda, perché volevo dargli dignità, cioè alla fine è quello che ti avverte, cioè lui è quello che ti avverte e ti dice: se ascolti me non vai in quel posto, se ascolti me non fai il bagno in quel lago, se ascolti me non entri in quella casa, salvi le penne. E tu lo guardi e dici: beh, questo qua è pazzo. E ci va lo stesso alla fine, almeno nei film succede così, esatto. Ma forse anche nella realtà succederebbe anche così. Realtà, sì. Ecco, e se invece lui avesse ragione, se quello che lui vede fosse vero, oppure no. E quindi se no, da lì parte tutto un altro meccanismo. Ok. Invito intanto a cliccare mi piace sulla pagina Facebook di Paranoid Boyd, che è aperta, dicevi, da pochissimo. Sì, oggi. Oggi abbiamo aperto la pagina ufficiale di Paranoid Boyd, quindi sarebbe bello che se vi siete un pochettino interessati, se mettete un mi piace e ci seguite, da adesso in avanti ci saranno un po' di novità ogni giorno, ogni tot giorni, fino ad arrivare a Lucca Comics. E quindi assolutamente, poi è un modo per tenersi in contatto, ricevere informazioni direttamente dalla fonte, dall'editore, esatto. Dagli autori. E facciamo un'altra pausa e questa volta un brano che ha un titolo suggestivo, ha una forza, un impatto notevole, di Bruce Springsteen, ma per chi conosce Bruce Springsteen più solare potrebbe essere una sorpresa. Viene infatti dal disco Darkness in the Edge of Town e si intitola Adam Raised a Cain, che fa pensare. Adamo, che era l'uomo buono, il primo uomo, ha cresciuto un Caino, cioè il primo uomo, il primo assassino ha avuto comunque per padre un uomo buono. Adam Raised a Cain, Bruce Springsteen. Ed è un pezzo veramente spettrale, Adam Raised a Cain. Qualcuno potrebbe non riconoscere Bruce Springsteen solare di Born in the USA o di altri brani suoi celebri. Abbiamo fatto una playlist un po' spettrale oggi perché ci piaceva affiancarci un po'. Non so perché sto parlando in pluralis maiestatis, sono il DJ, quindi mi piaceva affiancarmi un po' alle tematiche di cui avremmo parlato con Andrea Cavaletto. L'horror e il fantastico permettono sempre di affacciarsi al lato oscuro delle persone, toccare tutta una serie di temi che negli altri generi non toccano facilmente, quindi e immagino anche per questo che mi piace, ci piace l'horror. La difficoltà di scrivere certi personaggi più monumentali, quelli giusti, gli eroi, è contrapposta, ne parlavamo fuori onda con Andrea, ma sono cose che andranno, chiacchiere che andranno perdute del vento e voi non potrete mai conoscere, quindi mi dispiace. È c'è un sentire moderno nel raccontare, più vicino allo stile di Andrea, nel raccontare invece personaggi più complessi che non sanno qual è il giusto, qual è sbagliato, quantomeno si tormentano su questo. William Boyd di Paranoid Boyd è un personaggio di questo tipo, Andrea? Sì, sicuramente. Non è l'eroe classico, ovviamente, è un antieroe. Anche la definizione di antieroe un po' è diventata alla fine, vero. Si comincia a dare dell'antieroe anche a dei personaggi che in realtà sono tecnicamente degli eroi. Sì, beh, anche Dylan è considerato un antieroe perché spesso e volentieri cade, poi si rialza sempre, però non è quello che risolve tutti i casi, non è quello che alla fine della storia ha salvato baracche e burattini. Spesso e volentieri la cliente che viene a chiedere aiuto a lui finisce che ci lascia le penne, cosa che in Tex, per esempio, non succederebbe praticamente mai. Sì, sì, sono molto diversi, tipi di narrazione molto diversi e un sentire diverso nei confronti dell'eroe da parte di chi li scrive. Sì, diciamo che William Boyd è ancora un gradino sotto l'antieroe alla Dylan Dog. Dico sotto perché scende ancora più in basso, si sporca ancora di più. William Boyd è una specie di demente, cioè è un reietto della società. Demente in quanto non considerato capace di intendere e volere dal sentire comune. In realtà sì, cioè... Come diceva UNESCO, la ragione del più forte... Vabbè, c'era una bella citazione, però non ho abbastanza neuroni per... Io non la sono ragione abbastanza del, colto. La ragione del più forte... È tutto vabbè. Inutile per me. Ma uno cerca di... smettila, vabbè, parliamo di... poi parliamo di Carnazza e di esatto. E rimettiamo i Black Sabbath. Uno cerca di fare un discorso culturale e poi si porta. La prossima volta, basta, mai più, ospite Andrea Cavaletto, basta. Segnatevelo. Basta, no? Però, riprendendo il filo e cercando di essere seri... La citazione, adesso non ricordo le parole esatte, ma il discorso è che quasi sempre la ragione del più forte è follia, la ragione del più forte è ragione, la ragione del più debole è follia. La citazione esatta non era questo, ma chi non è in condizioni di far valere il proprio punto di vista, potrei rubartela come tag per il fumetto che sto cercando in questi giorni qua, per una frase pubblicitaria. Dobbiamo trovare la citazione esatta di UNESCO, sì. Poi attento ai rinoceronti, però, perché... La mia frase per adesso è "e se avesse ragione lui", che secondo me funziona. Ci sta, sì, funziona, sì. Perché rende bene l'idea, cioè come quello che ho detto prima, se avesse ragione lui, però chi lo sa, neanche lui lo sa. Okay. Ecco, William Boyd è un paranoico, ovviamente, è di un buon livello anche di paranoia, più alto del mio. Un mio amico che ha avuto la possibilità di leggere già i capitoli e di farmi in parte da editing, di curarmi l'editing, mi ha mosso questa prima critica dicendomi: il personaggio di William Boyd è uno che agisce troppo. Cioè lui se lo immaginava di più come un personaggio pauroso, che non prende decisioni, che non in balia delle sue stesse paure. Okay. Però da paranoico io posso rispondere che non è così, non sempre è così. Cioè esistono ovviamente i folli, i paranoici, quelli per dire come il pazzo di Dracula, che si mangiava le mosche. Okay. Ecco. Renfield. Il ghoul di Dracula. Esatto. Però il mio è diverso. Il mio è un Don Chisciotte. Esiste proprio la sindrome di Don Chisciotte, che ha un altro nome, adesso non mi sfugge, un altro nome in psichiatria. Okay. Però è questo non distinguere la realtà dall'allucinazione, la realtà dal sogno. Quindi una persona si trova in schizoide, in bilico. Sono una forma di schizofrenia. E William è così. E in più ho notato come alla fine noi come esseri umani cerchiamo di avvicinarci alle persone che la pensano comunque come noi, o comunque tendono a essere, avere qualche caratteristica nostra, no? Tipo delle aggregazioni. E ho pensato: ok, lui è così, è paranoico, e quindi dovrebbe stare in mezzo ad altri che sono più o meno paranoici come lui. Quindi gente che se lui si sveglia una mattina e dice: ragazzi, ieri ho aperto la finestra e ho visto un demone alato che volava sopra la città, non gli dicono, dai, cosa dici, prenditi le pastiglie, stai calmo. Ma lo assecondano, e gli stessi suoi amici hanno anche loro delle paranoie, quindi sono tutti un po' particolari, cioè ho esasperato comunque quello che alla fine è il quotidiano nostro, cioè io per esperienza personale, ti ripeto, so di essere così, so di avere dei credi che magari tu non condividi, ma so che anche le persone che sono attorno a me hanno dei loro credo che io magari non condivido, e per credo intendo c'è chi crede ai fantasmi, c'è chi crede agli alieni, c'è chi crede alle scie chimiche, c'è chi ti dice che ne so, c'è la cosa bella è che c'è chi ti dice, se tu dici ho visto un fantasma, ho sentito una presenza, ti ride quasi in faccia, e poi magari scopri che nel discorso dopo lui crede tranquillamente all'abduction, agli alieni che ti rapiscono, e quindi ho giocato tanto su questo. Se io sono convinto di una cosa, per me quella cosa è reale, e tanto più io sono capace a convincere te che quello che io ho visto è vero, e tanto più salgo di un gradino nel gruppo, nella sì. scala. Sì, credo che la difficoltà e l'obiezione giusta del tuo primo lettore sia che è molto difficile avere un personaggio che non agisce come protagonista. Infatti, cioè avrei potuto rendere un personaggio diciamo senza spina dorsale, cioè uno completamente in balia degli eventi, quindi Sclavi era bravissimo a descrivere sì. dei personaggi paranoici, ma non come protagonisti, esatto. Cioè anche Dylan stesso è paranoico per certi aspetti, sì, per tanti sì, aspetti, sì, sì. Però comunque è l'eroe del sì, del sì, fumetto. Lì c'è una difficoltà. Mentre Sclavi tratteggiava benissimo dei personaggi, degli omini, cioè degli uomini che vivono ai margini della società, però non era ben conscio anche lui che non puoi farci una serie, esatto. Perché cioè alla fine non appassiona neanche vedere un personaggio completamente in valia. E poi chi l'ha detto che il mio William alla fine non si riduca così? Cioè siamo solo all'inizio della certo. del percorso. Questo mio amico appunto ha letto soltanto la prima stagione, e nemmeno io ammetto so come andrà a finire. Adesso il mio editore si spaventerà, perché gli ho detto che ovviamente ho tutto ben chiaro in testa. No, ti permetti di sperimentare, poi naturalmente ti prenderai evolverà. Delle licenze, il discorso è ti prenderai delle licenze, tu sai benissimo come andrà, però potrebbe cambiare. Ma in realtà no, devi venderla meglio. No, ma mi piace così, cioè mi piace dirlo, mi piace dire che mi lascio portare dal personaggio, una cosa che facevo molto agli inizi. E poi più andando avanti con gli anni, diventando sempre più professionale, ho perso. Ed è una cosa che mi mancava. Cioè questo approccio alla scrittura un po' alla Stephen King. Cioè, sì. Prima l'istinto che la tecnica. Esatto. E volevo con Paranoid Boyd riscoprire questo... Un aneddoto che posso dirti è che ho fatto leggere un soggetto all'editore e mi è stato approvato. E poi l'ho cambiato tutto in fase in corso d'opera, ma proprio, e non ho più detto niente, cioè non gliel'ho detto, non l'ho avvertito. Ho ottenuto proprio quattro cosette, neanche l'ossatura, meno. E la cosa bella è stata, e man mano che scrivevo i capitoli glieli mandavo perché li leggesse, a un certo punto lui mi ha telefonato sotto le vacanze di Natale, scrivendomi un po' preoccupato, mi fa: sì, ma Andrea, bello, però non c'entra nulla con quello che mi avevi mandato come soggetto. Mi potresti far avere almeno il nuovo soggetto? Cioè non è che te lo boccio, te lo blocco, però fammi avere un indirizzo su dove vuoi andare a parare. E non gliel'ho mandato, gli ho detto no, perché tu stesso devi essere il primo a stupirti. Okay. E quindi, ma perché in quel momento lì nemmeno io sapevo dove sarei andato. Ok, a qui il discorso è molto complesso e può essere frainteso, nel senso, qui stai sperimentando quando laddove sei un professionista con una certa tecnica, e qui stai provando, in realtà stai usando lo stesso subliminalmente la tecnica, secondo me. No, ti correggo, sta usando più tecnica. Ecco, infatti, cioè, la tecnica per stare a galla, nonostante sì, cioè, tu non sappia ecco, la direzione. Non è che non so dove devo andare. Ecco. Il bello della scrittura creativa è che tu crei un personaggio, e se il personaggio funziona ed è buono, è il personaggio che ti dice dove vuole andare. Quindi tu devi stare lì, ascoltare i suoi i suoi pensieri, la sua voce e lo segui, cioè devi essere un po' pazzo, un po' paranoico, okay. Fidarti di lui, ed è quello che faccio, cioè con William è un'avventura anche per me, è un po' quello che dicevamo prima, l'ignoto, il fascino, esatto, dell'avventura, cioè è proprio un'avventura per me, perché cerco di capire dove lui mi sta mandando. Ok, ti interrompo per un'altra canzone e qui siamo dalle parti di Nick Cave, una bellissima ballata. Sembra inspiegabilmente Nick Cave in duetto con Kylie Minogue, ma sentirete che ci sta benissimo, è una bellissima storia d'amore. Peccato che lei è morta sotto un pelo d'acqua, e capitano queste cose qua nell'universo immaginifico, perché è uno scrittore praticamente Nick Cave, scrittore e regista con le sue canzoni. Where the Wild Roses Grow, Nick Cave, Kylie Minogue. Torniamo in onda sempre insieme ad Andrea Cavaletto, scrittore e sceneggiatore horror. Infatti i temi della puntata sono molto spettrali, orrifici, paranoici. Vabbè, siamo due cialtroni, però poi parliamo di cose serie, allora improvvisamente sembra... Fa anche gli effetti speciali. E Andrea, tu hai scritto fumetti, ma anche un fan movie di Dylan Dog che si intitola House of Shell. Sì. Ce ne vuoi parlare? Sì, si è già detto praticamente di tutto, nel senso che ormai è uscito, lo trovate su YouTube, quindi tutti lo possono vedere. È il mio personale omaggio a questo personaggio, a Dylan Dog, che okay. Mi è sempre piaciuto e volevo, è da tempo che volevo farlo e non ho mai avuto la possibilità, l'occasione, e poi mi è stata offerta, in realtà Domiziano Cristofaro, che è il regista, mi aveva chiesto da tempo, mi incalzava, e ho visto che, vedendo che anche altri lo stavano già facendo, ho detto perché non posso farlo anch'io, e quindi mi sono voluto mettere in gioco anche lì. Per te è una sorta di convergenza tra due carriere, esatto, autoriali, perché sì, sei anche sceneggiatore di cinema. Sì, sì, sì, quindi l'ho detto, cioè, mi piaceva proprio per quello, da sceneggiatore di fumetti. Era il mio piccolo sogno quello di vedere come avrei trasposto Dylan Dog, certo, in una sceneggiatura cinematografica. E parlando di sceneggiature, hai già anche una filmografia abbastanza fitta. Eh sì, adesso non mi ricordo più, sarò il 16esimo, 17esimo, no 17esimo spero di no, 18esimo. Vabbè, 17esimo ci starebbe bene, con sì, i temi horror, eccetera. Sono scaramantico, quindi... Ah ok, allora 18. Però la 17 comunque, okay, no, è un bel numero alla fine, okay, mi piace. Ma tra lungometraggi e cortometraggi? O tutti lungometraggi? No, okay. No. Tra lunghi e corti? Tra lunghi e corti, okay, ho okay, anche tanti corti all'attivo, perché sono partito come tutti con i cortometraggi, certo. Poi ho avuto la fortuna di riuscire a fare anche dei lungometraggi e poi ho fatto collaborazioni in lungometraggi che in realtà sono degli antologici, quindi gli antologici sono raccolti di corti. Sì, certo. Ricordo Po 1 e 2, che come dice il titolo sono basati su trasposizioni di racconti di Edgar Allan Poe, che abbiamo già citato in questa puntata, quindi sì, tutto torna. Sì. Tra l'altro si trova anche in DVD in italiano il primo dei, okay, due volumi, il secondo comunque si può trovare. Perché tanti mi chiedono, ma dove si trovano questi film? Perché è certo che trovarti il film di Vacanze di Natale è più facile. In Italia, dove da tempo, da secoli, dicono che il genere, il cinema di genere horror è morto e non vende, è difficilissimo. Cioè o ti chiami Dario Argento, se no fai fatica. Io ti ho scoperto come sceneggiatore di cinema, io ti conoscevo come autore di fumetti, ti ho scoperto come sceneggiatore di cinema grazie a un film che si intitola Hidden in the Wood, sì, fatta con un regista cileno, giusto? Patricio Valladares. Ok. Sì, sì, sì, sì. Come è finito Andrea Cavaletto, come è finito? Torinese, a scrivere per un regista cileno? Niente, che ho visto il primo film di Valladares in un festival e mi aveva colpito molto la regia, mi era piaciuto parecchio. E ho trovato il suo indirizzo mail e gli ho scritto e lui mi ha risposto. Gli ho mandato un po' di cose e ci siamo piaciuti e è iniziata una collaborazione che dura ancora adesso. Questa è un po' la dimostrazione. Se l'Italia è un po' immatura o forse la classe dirigente intellettuale snobba un po' certi tipi di contenuti, non significa che non si possa poi farli all'estero. Abbiamo avuto già qui ospite Maurizio Manzieri, che è pressoché sconosciuto in Italia, ma è un illustratore di copertine per The Magazine of Fantasy and Science Fiction, per Asimov's, per le più importanti testate di fantascienza americane. Quindi lui è un importante illustratore internazionale. E tu sei un importante sceneggiatore internazionale di horror. Di horror. Che però è una nicchia, anche... però cioè, quindi è una nicchia che ha anche un mercato internazionale. Sì. Adesso notevole. Stavo guardando e effettivamente, tracciando un pochettino il percorso, posso essere abbastanza soddisfatto, perché comunque tutti i film che ho scritto praticamente sono usciti tutti, tranne forse un paio. Che è tutt'altro che scontato, perché tante volte nel cinema si scrive, poi... soprattutto nel cinema indipendente. Esatto. Tante volte uno prima fa e poi non è detto che quando l'hai fatto il film sei a posto, cioè tu sei a posto solo nel momento in cui l'hai distribuito. Esatto. Poi non è neanche quello, è vero, perché se lo distribuisci e non te lo guardano, non te lo comprano e tutto, però diciamo che già arrivare alla distribuzione è un bel traguardo. Queste sono altre difficoltà di mercato con cui purtroppo bisogna fare i conti. Sì, purtroppo, poi soprattutto nell'indipendente non si sa mai quanto budget si può avere, quanto riesci a recimolare, è sempre un navigare a vista. Però da un lato ti forma, quindi, e ti permette anche, soprattutto anche lì, di sperimentare. Ho cercato in questi film, essendo tutti dei low budget, di metterci quanto più di mio potevo. E quindi, mentre tanti, non lo dico neanche come cosa negativa, però è una cosa che fanno, che facciamo, scopiazzano un pochettino gli americani, i grandi film, cioè le piccole produzioni tendono a guardare alle grandi, cercando di fare in piccolo quello che hanno fatto gli altri. Il che è problematico quasi sempre, perché vedi i limiti produttivi. Da un lato tecnico, cioè da un lato economico, è una cosa che tante volte può anche premiare, perché permette al film piccolo di attaccarsi alla coda del film grande, e sul successo del film grande hai una possibilità in più di poter uscire. Dall'altro c'è un po' di povertà, secondo me, a livello proprio creativo. Io non sono neanche un regista, sono sceneggiatore, quindi a me di lavorare in un film che devono scopiazzare o scimmiottare degli altri film, come sceneggiatore non mi interessava, non mi interessa, certo. Perché già i soldi non è che sono tanti quelli che vedi. In più, se il tuo nome inizia a essere legato a film che, ah sì, questo film qua è la versione povera di, o la versione di, Non aprite quella porta, per dire, non è una grande cosa. Non è stimolante. Io ho cercato di fare delle cose che nel loro piccolo non fossero mai state viste. Okay. Cioè, adesso mi fa un po' strano dirlo, però i premi che ho vinto e tutte le manifestazioni e tutti i festival a cui hanno partecipato i film a cui ho collaborato mi danno ragione, nel senso che comunque piccoli... Hai anche tu come scrittura una conoscenza tale del genere in grado di sovvertire alcuni cliché e costruire delle storie anche sul rimontare un certo luogo comune del cinema. E quello, credo che tu abbia fatto molto bene questo in Beautiful People, che è un film di zombie, no, non è un film di zombie, non è un film di invasione della casa, è un patchwork particolare che ogni volta che sembra che tu lo porti in una direzione, in realtà stai fregando. Senza spoilerare, però mi era stato proposto dalla Doghouse Pictures di fare questo film, volevano fare proprio un home invasion che diventasse, si trasformasse in uno zombie movie. A me gli zombie movie mi stanno un pochettino rompendo le scatole, perché dopo Walking Dead e dopo World War Z, insomma, certo. Diciamo che le cose si sono state sviscerate, sviscerate non per niente. E quindi ho chiesto ai ragazzi se potevano lasciarmi anche lì un po' di respiro. Okay. E anche qui hai potuto sperimentare, devo un po' tagliarti purtroppo, scusa, perché il tempo sono logorroico. No, ma va bene, anzi, ce ne vorrebbero più puntate, anzi, dovremmo fare una puntata doppia per dire tutto. Pensate a un cavaletto show, cava qualcosa. Cava show, dai. Proviamo, ci pensiamo. Oppure magari se una volta hai voglia puoi anche tornare, nel senso, sì. Possiamo, quando ci sarà Paranoid Boyd in corso, magari certo. Vediamo un po' di parlarne. Volentieri. Io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter, la pagina Facebook se volete cliccare mi piace, e sono solo Nuvolette. Su Facebook c'è anche Paranoid Boyd, la serie di Andrea Cavaletto, di cui abbiamo parlato questa puntata. Un'altra cosa che non abbiamo detto, l'ultima, okay. Paranoid Boyd lo trovate in fumetteria, non in edicola. Okay. È scontato, però cercatelo in fumetteria, potrete ordinarlo e il primo numero comunque sarà il numero uno sarà a Lucca Comics, quindi c'è anche un po' di tempo. E grazie ad Andrea Cavaletto di essere stato con noi, grazie, è stato un piacere. Ci sarebbero miliardi di cose da dire, come sempre il tempo non è abbastanza. Ci rimane il tempo per un'ultima canzone, che questa volta attingiamo sempre nei temi allegri e solari. Questa volta attingiamo a niente meno che del signor Massimo Bubola, con un pezzo che ho sentito, La Corvi. E io vi do appuntamento alla prossima settimana con Sono Solo Nuvolette, sempre alle 15, sempre su Radio Archimede. Ciao a tutti. Ciao.